GR Sport. Buongiorno da Dario Ricci. Lazio e Inter scendono stasera in campo all'Olimpico nel ritorno della prima semifinale di Coppa Italia. All'andata a San Siro finì 0-0, ma in casa nerazzurra, dove si pensa già alla sfida scudetto col Siena, tengono però ancora banco le polemiche per la sconfitta nel derby. Mancini risponde a Moratti, che lo aveva accusato di troppa prudenza. Non è assolutamente vero, lo scarso coraggio non esiste, cioè noi non abbiamo mai giocato una partita per pareggiare, ognuno può vederla come vuole. Credo sempre che quando si perde ci sia un colpevole, questo è sempre l'allenatore, quindi in questo caso se lui l'ha vista così il colpevole sono io, ma comunque non mi trovo d'accordo. No, ma queste sono le solite stupidaggini che dicono tutti quando una squadra magari passa un momento di difficoltà, allora siccome il calcio lo conoscono in pochi, allora tirano fuori sulla preparazione, Dubai e Tribai, queste cose qua. Per la Lazio invece quella di stasera è la partita che vale una stagione e Delio Rossi nel colpaccio ci crede. Io l'ho sempre detto, se noi giochiamo da Lazio ce la giochiamo con tutti, poi il risultato molte volte può prescindere da diverse cose. Domani Catania-Roma, gli etnei sono invischiati nella lotta a salvezza, ma Zenga non vuole sprecare l'occasione. Potessi giocarmi la semifinale di Coppa Italia tutti gli anni o una semifinale di Coppa UEFA tutti gli anni, ci metterei la firma adesso, da qui fino alla fine dei miei giorni. Non è assolutamente un problema e non deve essere un problema, anzi deve essere affrontata con grande convinzione, perché è una partita che ci può dare una grande spinta morale per affrontare le ultime due partite di campionato. Quasi condannato dalla classifica, per il Livorno arriva anche la mazzata del giudice sportivo, che ha squalificato ben 6 giocatori amaranto dopo il convulso finale della gara con l'Atalanta. 5 turni per Grandoni, 3 per Emanuele Filippini, 2 per Pasquale e una giornata a Balleri, Antonio Filippini e Pavan. Intanto proseguono le grandi manovre sul fronte del mercato. Il Milan si gode il nuovo arrivato Flamini, punta Zambrotta e si interroga su Ronaldinho. Adriano Galliani. Flamini è un giocatore che inseguivamo da molto tempo, ci sembrava molto bravo e crediamo che rafforzi il nostro centrocampo, tutto qua. Poi gli altri ci penseremo dopo il giorno 19 di maggio. La Juventus è sempre più vicina ad Amauri, ma il presidente Cobolli Gigli promette altri rinforzi in vista della prossima Champions. La Juve ha in programma un piano di rinforzo e senza fare nomi, comunque un attaccante, un centrocampista, un rinforzo per la difesa. Per il ciclismo, dura sentenza per Alessandro Petacchi. Il tribunale arbitrale dello sport di Losanna ha infatti squalificato per un anno il corridore della Milram, trovato positivo al salbutamolo durante il Giro d'Italia 2007. Petacchi finirà di scontare la sospensione il 31 agosto, in quanto la sanzione decorre dal 1 novembre 2007. Cancellati anche successi e premi ottenuti al Giro dello scorso anno. La Super Auguri si ritira dalla Formula 1. La scuderia giapponese, in piena crisi finanziaria, ha deciso di abbandonare il mondiale in corso. Ad annunciarlo lo stesso patron del team, Auguri Suzuki. La scuderia, nona nel mondiale costruttori della passata stagione, non aveva ottenuto il via libera per il Gran Premio di Turchia, che si corre domenica a Istanbul. C'è anche l'Italia tra i paesi interessati a ospitare l'edizione del 2015 dei mondiali di rugby. Lo hanno rivelato fonti interne alla Federazione Internazionale della Palla Ovale. Tra le rivali del nostro paese dovrebbero esserci Giappone e Inghilterra. La pallavolo assegna stasera lo scudetto maschile. A Trento i padroni di casa sfidano nella decisiva gara 3 di finale Piacenza. E chiudiamo con gli internazionali d'Italia di tennis. Non ce l'ha fatta Filippo Volandri a ripetere l'impresa dello scorso anno quando arrivò in semifinale al Master Series di Roma. Questa volta il tennista livornese si è arreso in 3-7 al primo turno all'ecuadoriano Lapenti. Al secondo turno vola invece lo svizzero Federer, che ha eliminato in 2-set l'argentino Cañas. Avanti anche Bolelli. Vi ricordo l'appuntamento con A Tempo di Sport alle 14. Ancora una buona giornata da Dario Ricci.